사람이 저런 죄가 와! 혼자집인다! Ed eccoci qui nella dada più bella del mondo. Il giorno quasi dopo la dada più bella del mondo, vabbè, giovedì era questo, noi non potevamo esimerci. Io e Nicoletta siamo reduci dalla giornata più bella delle nostre vite, probabilmente, personalmente la mia sì. Non del tizio davanti a noi invece che ha dormito tutto il tempo e ronfiava anche pesantemente, devo dire. Come avrete capito, siamo stati al cinema ovviamente per seguire, diciamo, il film eponimo della nostra trasmissione. In realtà è la nostra trasmissione eponima. Sì, perché del film. Si è scoperto che sono tutti fan di Ritorno al Futuro, perché non so se avete notato ieri un lieve intasamento di bacheche su Facebook o cose del genere, di persone che secondo me l'hanno visto una volta 10 anni fa, però ok, improvvisamente tutti fanno. Però finalmente l'immagine che condividevate tutti quanti su Facebook del timer della DeLorean con è il giorno in cui arrivano, dove vi ci hanno fregato, non so, tipo 10.000 volte con 10.000 fotomontaggi diversi, finalmente era quella giusta. Quindi vostro malgrado, perché magari non c'è, cioè, gente che non sì, l'ha sì, per carità, infatti 10 anni fa come adesso, cioè, cambia nulla. Quindi cominciando acidi, come giustamente io sono, io posso, continuerò anche acida, esatto, perché è il mio essere. Sprizzando acido come il piccolo dinosauro di Jurassic Park, salutiamo Isabella. Ciao, buonasera. Noi siamo Mauro e Nicoletta, diciamolo, come perché sennò non cazzo sono quei, esatto, tre, sì, almeno sono questi squilibrati che delirano in radio. Ci sia. Allora, vi diamo il benvenuto al nostro cerimoniale ritmico Mai Come Oggi, puntata dedicata ovviamente a Ritorno al Futuro, perché non saremmo qui se quel film non fosse mai esistito. Sì, una cosa che da una trasmissione che si chiama 1,21 gigawatt non va aspettereste mai una puntata su Ritorno al Futuro. Diciamo. Vero? Ma non solo su Ritorno al Futuro. Esatto, diciamolo. Poi ovviamente intervalleremo, perché sennò diciamo che vi suicidate un attimo se questa oretta e mezza alla buona che passiamo insieme è un blocco unico su questo argomento. Non dovreste, perché anche 3 ore dovreste, esatto, beccarvele tutte. Però per aiutarvi vi diamo anche qualche spunto quella di Lucca, visto sì, che perché la settimana prossima e siamo addirittura, ecco, d'arrivo. Siamo allora. Potete seguirci ovviamente su www.starradio.it nella sezione On Air, oppure tramite le app gratuite per iOS e Android. Oppure, come potete contattarci? Allora, ci potete contattare. Ciao Mauro. Ci potete contattare tramite la nostra pagina Facebook 1,21 gigawatt, alla quale vi invito a mettere mi piace e dove ricorderemo poi tutti quanti i contatti. Potete scriverci direttamente tramite i messaggi privati della pagina oppure tramite il nostro numero WhatsApp, che vi consiglio, che è quello più immediato, che leggiamo più facilmente, ovvero il 393005130, oppure tramite la nostra mail ufficiale, che per vostra sfiga è una roba aberrante. Adesso ce la dirà Mauro, quindi prego. Scrivete pure a 1.21gigawatt.starradio@gmail.com. Non voleteci male, non c'era altro modo. Esatto, perché dovuto. Le virgole non sono accettate e qualcuno aveva già registrato l'account 1.21 gigawatt. Ecco. Vabbè, quindi si suppone uno italiano, quindi comunque sia, kudos a te che hai registrato quell'account, perché è una bellissima mail. No, io lo però odio. Sei un po' un bastardo, ecco. Retroattivamente. Sei uno stronzo retroattivo. Ecco. Novità della settimana. Potrete ascoltare il podcast di questa puntata quando lo pubblicheremo, perché per adesso non abbiamo una data fissa, perché e ci abbiamo anche noi la nostra vita sociale, anche se non sembrerebbe dalle trasmissioni che facciamo. E anche perché non è che lo sappiamo fare proprio, esatto, bene, siamo sinceri. Su SoundCloud, andate su SoundCloud, cercate 1,21 gigawatt, gigo, perché nel film doppiato in italiano dice gigawatt, mi raccomando, e oppure appunto visitando la nostra pagina Facebook di riferimento potete trovare i link già ai podcast delle prime 2 puntate se aveste avuto impegni e non potevate seguirci. Oh, allora partiamo belli pimpanti, grintosi, cicciottosi. Ovviamente. Perché sei così felice oggi? Perché mi dai fastidio. È il giorno così, più bello della, è stato felice. Il giorno più bello della mia vita ieri. Io non vedevo l'ora di fare questa puntata tutta su Ritorno al Futuro. Vedi come siamo diversi. Lui c'ha il bicchiere mezzo pieno. Io invece già penso, mio Dio, ora quando guarderò Ritorno al Futuro sarà tutto nel passato. Esatto. Quindi sono depressa. Da oggi, oggi è il primo giorno che tutta la trilogia è ambientata completamente nel passato. Io sono depressissima per questa cosa. Invece tu, ma tutto gioia e tutti cicciosi, ha detto, ma Isabella non è evidentemente che concorda, quindi ci sta guardando con occhio che ci compatisce, no, proprio tutta questa gioia, vedi un po' tu. Allora innanzitutto, come nasce il film? Oggi la facciamo, siccome si spera che chi ci sta seguendo conosce già parecchio del film, allora oggi andiamo per piccoli trivia, per piccole curiosità, facciamo abbastanza dinamica così la puntata. Sì, perché se non li conoscete già non meritate, cioè, di essere non voglio che cioè, non ascoltateci, non per favore. Non siete persone decenti, andatevene. Allora, come è già curioso la nascita dell'idea del film, perché Gale, il produttore e screenwriter della scenografia Ritorno al Futuro, praticamente stava rovistando tra le sue vecchie cose e trova l'annuario del padre, no? Degli anni della scuola, che appunto erano grosso modo quelli del film, un po' qualche decennio indietro. Trova l'annuario del padre dove legge che era stato il presidente di classe, tradotto letteralmente il capo classe negli istituti americani, insomma, cosa che da suo padre non si sarebbe mai aspettato. E quindi si pone la domanda: ma se mi fosse capitato di conoscere mio padre, no? Sarei diventato suo amico, perché non se lo aspettava in quella veste. E da lì gli balena in mente l'idea di un film sul viaggio del tempo di un ragazzo che diventa amico dei suoi genitori. Proposta l'idea a Zemeckis, di tutta risposta, e qui già vi dà l'idea che fosse un tipo equilibratissimo, di tutta risposta lui pensa: chissà se mia madre è veramente così puritana come racconto, o se l'andava in giro a dare a tutti come fosse l'ultima cosa che gli era rimasta cara, cioè, una cosa molto così, cioè, ha dato il primo pensiero che avremmo tutti, esatto, quanti di nostra madre, cioè, chissà se mia madre era troia, ecco. Proprio così, ma va bene. Altra piccola curiosità è la macchina del tempo, no? Noi abbiamo tutti pensato all'idea geniale di utilizzare una macchina del tempo, una macchina vera, che è, in realtà è una cosa che funziona solo in italiano, no? Perché sì. In inglese è time machine e non time car. Quindi, quali erano le idee originali? Perché non è nato tutto con la DeLorean. L'idea originale, su cui in realtà Zemeckis puntava molto, era quella di utilizzare un frigorifero. Già. Veramente, un frigorifero. Durante un test atomico nel deserto del Nevada. E l'idea fu scartata non troppo per le difficoltà realizzative dell'esplosione atomica, eccetera, eccetera, perché poi l'esplosione atomica come fonte principale di energia della macchina rimase, poi trasformata nella reazione nucleare. Ma il problema, quello che preoccupava Zemeckis, era che i ragazzini, per imitare, si sarebbero potuti chiudere dentro i frigoriferi. E quindi voleva evitare tutte le polemiche che sono sempre... Sì, che per me era selezione naturale, però ok, capisco il suo problema, lo capisco. La curiosità è che se qualcuno di voi, maledetti come noi, ha dovuto, per imperativo morale o categorico kantiano, guardare Indiana Jones nel Regno dei Teschi di Cristallo, sa che questa scena è stata poi ripresa da Spielberg, che è il produttore della trilogia. È stata ripresa da Spielberg proprio in quel film stramaledettissimo. Gli era proprio piaciuta sta cosa, sì, del lo stupro di Indiana Jones, esatto. come dicono su South Park. Sta cosa del frigorifero in mezzo a un'esplosione nucleare. E come ho già detto, la fonte principale di alimentazione della macchina doveva essere un'esplosione atomica. E in tutte le versioni non definitive della scenografia, si vocifera siano circa una quarantina, quindi pensate quante revisioni ha avuto il film, in quasi tutte era la fonte principale di alimentazione la DeLorean. E poi i produttori hanno detto: senti, No, non sappiamo come mettercela dentro. Ma però sarebbe stato carino il funghetto atomico dalla telecamera. Esatto. Era carino. E era proprio l'idea quella che avrebbe lasciato il funghetto atomico, poi sostituito con le fiammate iconiche. Allora sono più fighe le fiammate. Allora sì, va bene. Sarebbe stato sicuramente un pelino più trash, che però è quel trash che è dei filmoni anni 80 che c'è sempre. Non chiamare Ritorno al futuro trash, no, perché sarebbe la stato. Però me la prendo sul personale. Lo stesso, cioè anche nel mondo ipotetico no, non lo è. Altra piccola carineria sul primo film, e poi andiamo a ascoltarci subito la prima canzone, è che non lo voleva fare nessuno questo film, proprio i produttori, gli studi cinematografici non lo volevano fare, perché negli anni 80, se qualcuno si ricorda i film, se avete la nostra età fondamentalmente siete cresciuti con i film maccioni degli anni 80, il tema principale era appena uscito Porky's, che aveva avuto un grandissimo successo, e altri film. Se non c'erano le tettazze, fondamentalmente dici il film tira poco. Io so anche che non mi ricordo da quale casa di produzione è stata rifiutata perché c'era poca sensualità. Esatto. Ma io so il rifiuto della Disney, che secondo me è bellissimo. Esatto. Allora, tra i vari rifiuti, la Disney inizialmente lo rifiutò. La primissima stesura del 1981 fu presentata alla Disney, che rifiutò il film perché, testuali parole di uno dei. Di quelli che aveva esaminato lo screenplay, disse: guarda, come film è carino, ma si ferma lì, cioè non è abbastanza accattivante. La Disney, che al tempo produceva capolavori, tra l'altro non animati, proprio appunto capolavori. Abbiamo citato i rifiuti perché non era abbastanza sexy il film, e in una delle sue versioni più definitive invece la Disney rifiutò nuovamente la pellicola per la storia del possibile incesto tra la mamma di Marty e Marty stesso, perché appunto sì, perché c'è questa tensione erotica tra i due, che è bella perché imbarazza anche te oltre che lui. Esatto, è come guardare Basic Instinct con i tuoi genitori a cena. Esatto. è quella sensazione lì di sbagliato. Esatto. Resa benissimo, tra l'altro, perché non è volgare affatto, cioè l'ingesto non c'è per niente, e tutta la tensione sessuale viene stemperata proprio da Lorraine nel film, quando finalmente bacia a stampo sulla bocca il figlio e dice: guarda, è stata una sensazione stranissima, mi è sembrato di baciare mio fratello. Che mi ha fatto sempre ridere, perché dico: tu come sai cosa si prova a baciare, esatto, il tuo fratello? E allora, lanciando la prima canzone, vi lascio con l'ultimo trivia. Ci stiamo per ascoltare di Huey Lewis and the News, The Power of Love. Canzone che è in una sua versione più metal strumentale, è quella che utilizza Marty nell'audizione all'inizio del film della sua scuola, no? Per suonare al ballo. Canzone che viene stoppata pochissimo dopo da uno dei professori, dicendo: no ragazzi, siete troppo rumorosi. Quel professore lì è proprio Huey Lewis, quello che è l'autore della canzone. Sì, che tra l'altro è stato presente anche lì in sala, perché non so se avete visto oggi che da Jimmy Kimmel sono stati loro due, esatto, quindi Christopher Lloyd e Michael J. Fox, che hanno, mio Dio, guardatelo perché ho pianto, quindi guardatevelo. Mio Dio, la commozione. E mentre facevano questa scenetta, che è una cosa di una meraviglia assurda, si è alzato Huey Lewis dal pubblico, che col megafono a dire che erano troppo rumorosi, esatto, quindi anche questo. Salvo poi fargli cantare Back in Time alla fine del tutto. Sì, perché scenetta. Poi lì, quando Marty all'audizione suona The Power of Love, è perché riprende la scena iniziale di Doc, ho fatto tardi a scuola, e parte Power of Love. Esatto. Quindi, quindi lasciandovi ovviamente ci lasciamo sulle note di Huey Lewis and the News con The Power of Love.